24 mattino di Alessandro Milan. Le 6:21 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo qua con 24 mattino, siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, ci trovate così 24 mattino, potete diventare nostri amici, amici del nostro alpino Peter Bescapè che trovo lì in regia. Oggi parleremo allora di questo no del governo Monti, di Mario Monti, no ai giochi olimpici Roma 2020, no alla candidatura di Roma. Che ne pensate? Ha fatto bene a tarpare le ali a questo sogno, visto che economicamente rischiavamo un salasso, rischiavamo di presentarci al mondo, come ha detto lo stesso Monti, dopo 3 mesi di rigore con l'impressione di fare già un qualcosa che sforasse i conti? Oppure ha fatto male perché confidavate, le Olimpiadi non sono solo una questione economica? Insomma, che ne pensate? Ne parleremo più avanti. Intanto andiamo a vedere le notizie sui giornali. Ovviamente questa di Monti e no alle Olimpiadi è una delle notizie più diffuse sulle prime pagine. In questo mercoledì 15 febbraio intanto due aperture diverse, perché quasi tutti i quotidiani aprono su questo. Il Sole 24 Ore invece sceglie l'Europa, blocca gli aiuti alla Grecia, questo è il titolo d'apertura. Il Corriere della Sera invece arrivano i redditi dei ministri, il tema che abbiamo anche trattato in parte ieri. Verranno resi noti finalmente. Su Repubblica invece ecco la carrellata dei titoli sulle Olimpiadi. Olimpiadi, il gran rifiuto di Monti. Per la stampa, Monti cancella Roma 2020. Libero, Roma perde i giochi, vince l'Italia. Il Messaggero, Olimpiadi a Roma, no di Monti, troppi rischi finanziari per l'Italia. Niente giochi, meno soldati. Questo invece Avvenire che mette insieme il no ai giochi e il taglio al del Ministero della Difesa che è annunciato per oggi. Non gioco più, è il titolo del manifesto. Ferma Italia, Monti boccia le Olimpiadi, il titolo dell'Unità, mentre invece il giornale sceglie Celentano farnetica e attacca i preti, questo in apertura, mentre il Fatto Quotidiano, Ior, ecco le carte che inchiodano il Vaticano. Allora, intanto, come detto ieri abbiamo parlato di redditi dei parlamentari, in quel caso, ma anche c'era il tema dei redditi dei membri del governo Monti, perché Monti stesso aveva annunciato li renderemo tutti trasparenti e tutti noti lo scorso novembre, lo aveva detto, finora non l'aveva mai fatto, ma pare che ora martedì sia la data prescelta per far sapere a tutta Italia i redditi di premier e ministri. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 11 del Corriere della Sera con Alessandro Trocino, ma anche Repubblica fa un'intera pagina con Carmelo Lo Papa. Scaduto il termine trasparenza, solo 3 ministri lo rispettano, circolare ultimatum ai ritardatari. Allora pare che Mario Monti ieri, tra l'altro anche un po' creando un po' di imbarazzo all'interno del Consiglio dei Ministri, abbia fatto sapere ora basta, bisogna far sapere e io lo farò a giorni, anzi ad horas, il mio conto corrente, i miei patrimoni, i miei redditi, tutti i dati finanziari. Lo metterò a disposizione, metterò a disposizione anche il mio conto corrente. Così ha detto ieri Mario Monti. Il Corriere della Sera con Alessandro Trocino fa sapere che ci sono già dei ministri che hanno anticipato questa direttiva. Profumo, per esempio, il ministro all'istruzione, che ha già fatto e ha già reso noto il suo 730 di fatto. Oltre a Profumo, altri ministri, il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, che dichiara 199.000 euro, il ministro per la pubblica amministrazione Patroni Griffi, 205.000 euro. Oppure i sottosegretari all'istruzione, Elena Ugolini dichiara 188.000 euro, qualche bene immobile, un'abitazione a Bologna al 50%, una casa, una cantina, un garage a Rimini. E se voi siete curiosi, possiede una Lancia Y e nessuna azione. Marco Rossi Doria, l'altro sottosegretario noto per essere stato un maestro di strada, dichiara 188.000 euro. La docenza alla scuola primaria nella provincia di Trento, 37.000 euro in aspettativa, un'abitazione a Napoli di 62 metri quadri al 50%, un edificio rurale con corte a De Monte da 208 metri quadri, viaggia con una Lancia Musa Eco Chic immatricolata nel 2011. E insomma, questi sono alcuni dei dati che si sanno, ma secondo Repubblica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà ha emesso una vera e propria circolare dicendo a tutti i ritardatari: entro martedì tutti i dati devono essere pubblicati online e quindi resi noti a tutti. Arrivano dunque, in nome della trasparenza, i redditi di ministri e del presidente del Consiglio. Una notizia sempre per quanto riguarda i soldi, il denaro, la troviamo su Libero a pagina 7, riguarda gli stipendi dei cosiddetti super manager di Stato. Il vice direttore di Libero, Franco Bechis, fa sapere che il prof, cioè Monti, dimezza lo stipendio a Befera. Inizia proprio da lì. Chi ce l'aveva con Equitalia e con il suo gran capo avrà la sua non piccola soddisfazione. Ad Attilio Befera sta per essere dimezzato lo stipendio. Il super manager del fisco deve prepararsi a dire addio a circa 300.000 euro lordi sugli oltre 600.000 che oggi prende, cumulando l'incarico di direttore dell'Agenzia delle Entrate e la presidenza di Equitalia. Il governo Monti infatti ha deciso di non concedere né a Befera né a direttore e segretario generale della pubblica amministrazione alcuna deroga rispetto alla regola stabilita dal decreto Salva Italia del 6 dicembre scorso e che prevede un tetto omnicomprensivo agli stipendi pubblici pari a quello di primo presidente della Cassazione. E dunque il limite massimo è posto a 304.000 euro lordi all'anno. Befera perde così mezzo stipendio, ma il taglio è anche per altri. Per esempio il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia Vincenzo Fortunato, su cui si è favoleggiato di uno stipendio assai vicino al milione. Ma Bechis dice in realtà nel 2008, quando Vincenzo Visco rese noti i redditi, si scoprì che il suo reddito allora era di 788.000 euro. Dovrebbe dunque rinunciare a 483.000 euro, forse anche di più. Taglio consistente anche per Raffaele Ferrara, che guida i monopoli dello Stato, dovrà rinunciare a 176.000 euro. Dovrà rinunciare a poco meno di 100.000 euro l'anno anche il presidente del CONI, Gianni Petrucci, cioè dello sport olimpico. Dunque, insomma, giornataccia per Petrucci ieri, non solo il no di Monti, ma anche questa notizia di dover rinunciare. Arriva un taglio di 100.000 euro, ci rimetterà 82.000 euro l'anno il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ma il taglio più consistente sarà per il suo direttore generale, Antonio Rosati, che rinuncerà a 90.048 euro. Se fra gli enti pubblici invece sarà annoverato anche il Super INPS, la vittima numero uno del decreto potrebbe essere Antonio Mastrapasqua, che vedrebbe calare una mannaia da circa 900.000 euro sul suo stipendio per adeguarsi al limite massimo di 304.000 euro lordi. È venuto un po' il mal di testa per tutte queste cifre che magari vedrete cumulando lo stipendio vostro, di vostra moglie, vostro marito, vostro figlio, vostro cugino, l'amico, il collega. 24 mattino. Eccoci allora alle 6:36 minuti. Come detto, molti quotidiani aprono sulla questione del no di Mario Monti, il premier che ieri ha incontrato il comitato di Roma 2020 e di fatto ha bloccato la candidatura di Roma per una questione di conti pubblici, una questione di, come c'è scritto sulla stampa, pagina 3, nel retroscena, nell'incontro tra Mario Monti e i rappresentanti del Comitato Olimpico, Mario Monti ha detto: il vostro studio è perfetto, il vostro studio di fattibilità, ma qui ci sono in gioco i soldi dei contribuenti, i soldi degli italiani. E secondo la stampa, tra l'altro, è stato un confronto abbastanza serrato, anche a tratti teso, anticipato da una anticamera di 2 ore, tanto che il comitato di Roma 2020, erano presenti il presidente del CONI Petrucci, Mario Pescante come presidente, Gianni Letta, hanno incassato veramente questo anticamera, scrive La Stampa. Qualcuno dei tre aveva pensato addirittura di interrompere questa anticamera di 2 ore andandosene ancora prima di incontrare Monti, tanto si era capito che tutto virava verso il no, tanto che anche il capo del CONI, Petrucci, ha detto: presidente, era suo diritto dirci di no, ma perché solo ora? Meritavamo più rispetto. E un Monti che avrebbe detto in questo incontro: domani vedrete, i giornali mi massacreranno. In realtà c'è da dire che i giornali quasi all'unanimità, ho letto sulla Gazzetta dello Sport il direttore Andrea Monti che dice e scrive: peccato, a questi giochi proibiti ci avevamo quasi creduto. Ma per la verità la quasi totalità dei giornali plaude al no di Monti. Sergio Rizzo, per esempio, in prima pagina del Corriere della Sera firma l'editoriale La contabilità delle ambizioni. Comprendiamo i musi lunghi delle nostre gerarchie alte sportive, non capita tutti i giorni di arrivare così vicini senza riuscire ad afferrarlo, è un sogno. Né ci sorprende il senso di frustrazione del sindaco Alemanno dopo 2 weekend di fila sotto la neve, le polemiche sulla gestione dell'emergenza meteorologica, il no di Monti alla candidatura alle Olimpiadi è un colpo impossibile da assorbire. Tuttavia temiamo che abbia ragione l'organizzatrice di Torino 2020, Evelina Cristillin, che dice: da sportiva ero assolutamente a favore di Roma 2020, ma sono più comprensibili le regioni addotte da Monti. E Sergio Rizzo poi va avanti con i troppi appuntamenti nei quali l'Italia si è presentata impreparata. Il partito dei giochi avrebbe dovuto ricordare che da troppi anni sbagliamo e per difetto ogni preventivo di soldi e di tempi, non per colpa dei ragionieri, ma di una macchina impazzita che macina ricorsi al TAR, arbitrati, revisione dei prezzi, varianti in corso d'opera, veti di chi che sia, dalle regioni alle circoscrizioni, un impasto mostruoso di burocrazia, interessi politici e lobbistici che spesso alimenta la corruzione e ci fa pagare un chilometro di strada al triplo che nel resto d'Europa. E in 2 decenni non è cambiato proprio nulla, anzi, ecco, è a questi timori che Monti ha guardato per dire no. Secondo Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei, il premier Monti, che da giorni studiava il dossier di Roma 2020, sarebbe lasciato andare anche a questa confidenza: con i giochi si fa la fine della Grecia. E tra l'altro molti giornali ricordano che proprio la Grecia, con le Olimpiadi del centenario, iniziò in qualche modo il suo declino dei conti pubblici. Come detto, i giornali, anche Libero titola: l'importante è non partecipare, con l'editoriale di Maurizio Belpietro. Roma perde i giochi ma vince l'Italia. Insomma, per vedere qualche giornale critico, beh, c'è il Messaggero. Roma ci credeva, ovviamente, propone un'intervista al sindaco Alemanno a pagina 3, che dice: secondo me è una lettura fuorviante che al limite può riguardare la Lega, cioè il fatto che lo stop del governo è un colpo contro Roma, alcuni ambienti nordisti, ma non è questo che ha condizionato la scelta di Monti. Monti ci ha detto questo, non poteva garantire la copertura del nostro progetto perché poteva apparire un segnale sbagliato ai mercati finanziari. Un Alemanno che è dato come al culmine dell'ira per questa decisione. L'editoriale del direttore del Messaggero Mario Orfeo: se comanda sempre il Nord, ottima decisione, a Roma fanno solo casino, mette la frase di Umberto Bossi, che con la sua consueta rozzezza, scrive Orfeo, tira una linea di continuità tra l'ultimo governo Berlusconi, di cui era grande azionista, e il governo Monti, di cui è invece strenuo oppositore. Sono cambiate molte cose, non sarà una decisione che riteniamo profondamente ingiusta e che molto amareggia Roma e Romania, non farcele più vedere, ma certo non è cambiata la forte spinta nordista di questo e di quell'esecutivo. Sono anni che non abbiamo un presidente del Consiglio nato sotto l'Appennino. Insomma, quindi Mario Orfeo attacca proprio una sorta di lobby del Nord. Se possono sicuramente essere giudicate serie le ragioni che hanno convinto Monti a dire di no nella delicata congiuntura economica finanziaria che l'Italia sta vivendo e fondate le argomentazioni espresse dal comitato organizzatore, possiamo sapere chi pagherà per i ritardi dell'Expo 2015 in programma a Milano? E chi e quando bloccherà i fondi per il MOSE di Venezia, un'opera quasi inutile ma dai costi scandalosi? Insomma, dunque, Mario Orfeo la pone così: Nord contro Roma, o comunque un governo sbilanciato per il, al Nord. E questa domanda fa impressione: da quanti anni non c'è un presidente del Consiglio nato sotto l'Appennino? Il Corriere della Sera fa anche dei conti: il costo dei giochi era di 800 milioni l'anno, questa è la cifra che si sarebbe spesa dal 2014 secondo la Commissione Economica, mentre invece fa altri conti a pagina 7 il Sole 24 Ore, questo no costerà 17 miliardi di crescita del PIL. Un no che lascia l'amaro in bocca, scrive Laura Di Pillo, per gli investimenti mancati, per l'impatto economico sfumato che l'evento avrebbe avuto sul paese, in particolar modo sulla capitale. Secondo le stime contenute nella relazione della Commissione di Compatibilità Economica, presieduta da Marco Fortis, i giochi 2020 a Roma avrebbero portato una crescita del PIL pari a 17,7 miliardi nel periodo 2012-2025, con la creazione di circa 170.000 posti di lavoro in un decennio a cavallo della manifestazione. In ogni caso, il no c'è stato, i Monti, che ne pensate? Ne parleremo anche noi alle 8.30. Avvenire invece mette in prima pagina il no di Monti e un'altra notizia che verrà oggi poi confermata, credo, in Parlamento dal ministro della difesa Di Paola: niente giochi, meno soldati. La difesa fa una cura di dimagrimento, meno armamenti e generali, le spese militari colpite dai tagli, così titola Repubblica pagina 10, è lo slogan del ministro della difesa Giampaolo Di Paola per presentare la sua riforma, quasi un volantino commerciale, no? Meno generali, meno ammiragli, più operatività e tecnologia. Scenderà da 191 a 191.000, circa 150.000 la forza dell'esercito. Ovviamente tutti i giornali si concentrano anche su il taglio a quella che è considerato l'emblema della spesa militare per eccellenza, che ha fatto molto discutere in questi mesi, vale a dire l'acquisto degli F-35, il caccia invisibile prodotto da Lockheed Martin, che 40 ditte italiane costruiranno anche in uno stabilimento vicino a Novara. L'Italia doveva acquistarne 131, secondo fonti del ministero si potrebbe scendere a 90 aerei acquistati, con un taglio dunque del 30%. Su questo anche il Messaggero: la riforma di Di Paola, tagliati 40 F-35, la difesa annuncia la riduzione del personale e dei programmi. Tutto questo mentre la Grecia ancora trema, tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore a pagina 3. Si pensava che con la firma delle riforme Atene sarebbe salvata in un batter d'occhio, invece Beda Romano fa sapere da Bruxelles che è stato cancellato l'Eurogruppo sulla Grecia. Venerdì a Roma c'è un vertice tra Monti e la Merkel, l'ha confermato anche lo stesso Monti, si discuterà molto di Atene, di Unione Monetaria, di Europa. Sta di fatto che la Grecia non è per nulla salva, l'Europa prima di dare gli aiuti promessi in cambio della riforma vuole ancora vederci chiaro. Noto tantissimi messaggi, intanto sulle Olimpiadi, ma poi approfondiremo alle 8.30, e anche chi ci scrive: beh, ma invece l'aeroporto che vogliono fare in Campania, ne parleremo alle 8.20 perché avremo uno dei maggiori sponsor, il presidente della provincia di Caserta. Vogliono fare un aeroporto a Grazzanise. È tutto vero, pare che per ora ci sia uno stop, ma è tutto vero. A 70 km dall'aeroporto di Napoli mancava un aeroporto, evidentemente, in Italia. Come non pensarci, come ci siamo dimenticati dell'aeroporto di Grazzanise? Ne parleremo alle 8.20 per l'appunto. Intanto sul Fatto Quotidiano invece in prima pagina continuano i documenti che mettono il Vaticano in sotto i riflettori. Oggi vi segnalo questa inchiesta, Iore, ecco le carte che inchiodano il Vaticano, sono un articolo di Marco Lillo a pagina 2-3. Altro che trasparenza e collaborazione, altro che volontà di fornire tutte le informazioni a chi indaga, il Vaticano non ha intenzione di attuare gli impegni assunti in sede europea per aderire agli standard del Comitato per la valutazione di misure contro il riciclaggio, a sottolinearlo in due documenti, a scriverlo nero su bianco, non è il Fatto Quotidiano, ma due massime autorità in materia dentro le mura leonine, vale a dire il cardinale Attilio Nicora, che è ex presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ora presidente dell'autorità di informazione finanziaria del Vaticano, e il professor Giuseppe Dalla Torre, presidente del tribunale della città del Vaticano. Questi due documenti che erano stati sollecitati dal segretario di Stato Bertone, in questi due documenti il dossier del cardinale di Nicora appunto dice con la nuova legge ci saranno meno controlli sui fondi, insomma nuovi documenti che fanno discutere con il Vaticano appunto sotto i riflettori. La cronaca è densa oggi sui giornali e vi segnalo l'inchiesta che ha portato il vicepresidente della regione Umbria Orfeo Goracci, ex sindaco di Gubbio, agli arresti. Le accuse per lui sono pesantissime, quelle di avere creato un clima di intimidazione, di paura per anni, quando era padre padrone, lo zar era definito a Gubbio. Aver creato un sistema Goracci, il sistema era quello anche di fare assumere, dare il tempo indeterminato, un lavoro, un posto fisso, soprattutto alle donne che cedevano ai suoi ricatti sessuali. Beh, sono accuse che oggi Repubblica sbatte a pagina 23 con la testimonianza soprattutto messa verbale di Sabrina Morena, agente di polizia municipale precaria del comune di Gubbio. Mi mandava sms con proposte sessuali, 3 anni di pressioni, 800 sms. Una volta sono entrata nel suo ufficio, mi ha stretto a sé, mi ha tentato di baciarmi, io mi sono ho tentato di divincolarmi, poi un'altra volta mi prendeva la mano. Insomma, viene descritto, ma anche su Libero, furti e molestie, sgominata la giunta rossa a Gubbio, il vicepresidente umbro Goracci di Rifondazione in carcere per associazione a delinquere e violenza sessuale. E anche l'Unità, gli 800 sms a Sabrina, dovevi cedere per avere il posto, la testimonianza dell'ex agente della polizia municipale della città, quando rifiutai fui scalzata in graduatoria. A proposito di cronaca c'è anche una vicenda che riguarda, ve la segnalo solo per andare subito a Sanremo, del testimone, c'è un testimone per l'uccisione di un cileno ucciso da un colpo di pistola di un agente della Polizia Municipale di Milano, che ora deve rispondere di omicidio volontario, Alessandro Amigoni, perché ha sparato alle spalle e pare, secondo testimoni, che non ci fosse alcuna pistola in mano né alla persona che è fuggita né alla persona che è rimasta uccisa, la vittima, il cileno Marcelo Valentino Gomez Cortés, di 29 anni, a Milano. Sanremo, l'avete visto? Io no, quindi non posso parlare granché, se non leggere i giornali. Celentano lancia bombe su giornali cattolici e Consulta, attacca Avvenire, l'avete sentito, andrebbe chiuso con Famiglia Cristiana. Oggi il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, in prima pagina gli risponde: se l'è presa con i preti e i frati, tutti tranne uno, che non parlano del paradiso, se l'è presa con Avvenire e Famiglia Cristiana che van chiusi. Tutto questo perché abbiamo scritto che con quel che costa lui, alla RAI per una serata si potevano non chiudere le sedi giornalistiche RAI nel sud del mondo, Africa, Asia, Sud America, e farle funzionare per un anno intero. Dunque andiamo chiusi anche noi, buona idea. Così a tutti questi poveracci, tramite il comune competente, potrà elargire le sue prossime briciole di cachet. Davvero un bello spettacolo. Bravo, viva Sanremo e viva la RAI. Molto ironico, ovviamente. PS, scrive Tarquinio, naturalmente, caro Celentano, continueremo a parlare, far parlare di Dio, degli uomini, delle donne di questo mondo, soprattutto di quelli che in TV non ci vanno mai, neanche gratis. Ma il giallo, Paolo Crecchi, sul Secolo XIX, legato alla valletta Ivana Mrazova, quella che stava per diventare famosa, ma per una cervicalgia ha dovuto abbandonare. In realtà il mistero, secondo Paolo Crecchi, che raccoglie la testimonianza di un'infermiera all'ospedale, è questa: è anoressica. altro che cervicalgia. L'accusa è questa: forse è stata coperta la sua presunta anoressia, e se davvero soffrisse di anoressia, scrive sul Secolo Paolo Crecchi, ci sarebbe un messaggio festivaliero devastante. Ivana preoccupa la sua magrezza. Allora, torcicollo o problema ben più grave, anoressia? Chi lo sa? 24 mattino. Siamo qua, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20 minuti in punto in questo istante. Allora, Roma non avrà le Olimpiadi, ne parleremo alle 8:30. L'Italia dunque non avrà le Olimpiadi di Roma, ma l'Italia forse avrà un aeroporto in più a Grazzanise, in provincia di Caserta. Ne saluto il presidente della provincia, anche deputato, Domenico Zinzi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'ho detto senza facili ironie, però capisce che si presta un po' a ironie, presidente Zinzi. Un aeroporto a Grazzanise, a 35 chilometri dall'aeroporto di Napoli. A che serve? Ma guarda, il problema va posto in una maniera più chiara. Ma non si tratta né di Grazzanise né di Caserta. Si tratta di un aeroporto sicuro, più efficiente, che consente di far atterrare voli che provenienti da altri continenti, che serve per la Campania e serve per il sud. Mi scusi, né Grazzanise né Caserta. Cioè, ma gli aerei internazionali non possono atterrare a Napoli? Ma lei sa bene, non so se lo sa, ma lo sanno tutti, che l'aeroporto di Capodichino ha i suoi limiti di sicurezza, e nel centro, nel cuore della città, e quindi non ha una capacità di sviluppo ulteriore. Come l'aeroporto di Linate a Milano. Non si potrebbe migliorare quello, voglio dire. Cioè, E purtroppo la condizione in cui si trova Napoli, con le colline del Vomero e dei Camaldoli, molte raggi avvengono con i carrelli che sfiorano i tetti delle case del Vomero, e quindi questo per rendere, quindi non c'è la possibilità di allungare. E quindi i limiti, che poi significa sicurezza dei voli, consiste proprio in questo essere chiuso nella città, sì, senza avere altro spazio. Ma mi scusi, presidente, lei si vede un bel Grazzanise New York? Guardi, il problema, senza ironia, è che Grazzanise c'è un aeroporto militare. Questo sì, c'è una pista militare. C'è un aeroporto militare, e si potrebbe abilitare al couso militare e civile, e quindi c'è già un impianto. È chiaro che si deve rimodellare, che si deve attrezzare, che si deve far diventare aeroporto. Ma mi consenta, guardi, qua non si tratta di Grazzanise, perché si parla di un aeroporto vero, sicuro, e che si addice a una regione di 6 milioni e mezzo di abitanti. Sì, però capisce, presidente, che l'idea posta anche ieri sul Corriere da Sergio Rizzo è che siamo l'Italia. Però sembra l'Italia dei mille campanili, mille aeroporti e delle mille province. Ecco. Sì, guardi, a me dispiace che il Corriere non ha pubblicato una mia nota con la quale ho voluto chiarire tutte le strutture che sono state rappresentate da Rizzo. Mi farebbe grande cortesia, oggi non l'ha pubblicata. Se la portasse domani, così il lettore si rende conto e imposta il problema con grande chiarezza, capisce meglio, non come ha fatto. No, ma questo sì, però lei mi sta dicendo che bisogna fare un grande aeroporto degno di una grande regione, vale a dire la Campania. Ma anche questo, la Campania è la seconda regione d'Italia. Se vogliamo creare sviluppo, se vogliamo contrastare quelle condizioni, di malavita, se vogliamo togliere, bisogna creare sviluppo. E allora chiudiamo, lei che proprio, chiudiamo Napoli a questo punto. Chiudiamo Napoli e facciamo Grazzanise. No, e difatti Grazzanise nasce con il trasferimento di Napoli a Grazzanise. Cioè, ma capisce che però l'immagine del mondo della Campania, per chi viene da New York, da Tokyo, è Napoli, non Grazzanise, il rispetto. Guarda, se lei va a Londra, dove trova l'aeroporto? Lo trova a 50 minuti, a un'ora da Londra. Sì. E qua lo troverebbe a 35 minuti da Napoli, ci sono tutti i collegamenti, viari, anche le ferroviarie, è tutto predisposto per collegare Napoli a Grazia. Senta, ha letto offrendo anche una sicurezza maggiore alla città. Ha letto di recente anche Roberto Saviano, che ha detto questo è l'affare che vuole soprattutto Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario chiacchierato. Tutto questo è sbagliato. Io credo che la PDL non voglia l'aeroporto. Perché ieri quello che è successo in consiglio regionale, e ci sono state le minoranze a sostenere l'aeroporto, per cui anche questa è una barzelletta. Cioè, quindi allora non è un affare che vuole Nicola Cosentino, non è sponsor di queste cose. Non c'è, anzi farebbe bene Saviano a scrivere le cose che scrive, ma a sostenere anche le buone ragioni della sua terra, se no fa capire solo che è interessato solo a una parte del discorso, a speculare sulla Campania e su Caserta, perché Saviano è di Caserta. Certo, lo vorrei più impegnati a sostenere le ragioni della terra, anche contro la camorra, però sul campo. Non si può parlare solo da lontano. E quindi ma sa che sul campo avrebbe un qualche problema Saviano a stare sul campo? No, avrebbe, guardi che in provincia di Caserta, lei faccia un calcolo, ci sarà come c'è la camorra, come in tante parti d'Italia, o diciamo la malavita è ovunque, però le posso assicurare che il 99,9% dei cittadini casertani è persona per bene, persona nella quale è cresciuto Saviano, e Saviano può continuare a vivere con le istituzioni casertane, con la provincia, col comune, potremmo sviluppare tante belle azioni assieme. Cioè dovrebbe essere un po' meno negativo un po' presente ad affrontare e fare le battaglie assieme a tanti di noi, assieme alla città. Ma guardi, so che anche il Politecnico di Milano ha fatto, citava ieri Sergio Rizzo, uno studio dicendo non serve questo aeroporto di Grazianise, guardi Rizzo è stato molto superficiale in quella cosa di ieri, lo fa per farsi leggere, perché purtroppo l'antipolitica, quando si parla male dell'istituzione oggi prende piede. Però sì, oggi dovremmo essere tutti un poco più serio, lo dico anche a Rizzo, sì. Farebbe bene a pubblicare quella mia nota di ieri, perché vabbè, adesso porteremo avanti questa sua richiesta al Corriere della Sera. Non è il caso, lei dice serve. Vabbè. Senta, intanto le chiedo anche questo, visto che lei è presidente della provincia, anche onorevole, ma quella sentenza della Consulta che vale per i sindaci, che molti hanno dovuto rinunciare all'una o all'altra poltrona, per il presidente di provincia non vale? Mi pare di sì. Anche guardi, ci sono dei presidenti di provincia che si sono dimessi. Vale per i sindaci, si può adeguare ai presidenti di provincia. Oggi teniamo la giunta per l'elezione e si va avanti nella discussione su questo. E perché lei non ha? Perché ad esempio il presidente della provincia di Bergamo si è dimesso dal Parlamento. Io ho dato già disponibilità alle mie dimissioni, è un problema interno al mio partito. Al di là di come va a finire la discussione di oggi in giunta, la mia disponibilità alle dimissioni c'è tutta. Da dove? Dal Parlamento? Dal Parlamento, perché resto a fare il mio impegno, la mia battaglia per sostenere la mia terra. Però perché dice il problema all'interno? Cioè al partito invece qualcuno non vuole? Partito? Vedrà che tra non molto, insomma. Ecco, si dimetterà. Io mi dimetto e diretto. La mia volontà e qui siamo tutti d'accordo. Senza ironia, mi dica qual è il suo sogno, il volo Grazianise per... No, guardi, il mio sogno è quello di creare condizioni di sviluppo per il Mezzogiorno, per la Campania e, se mi consente, per la mia Caserta. Vabbè, però insomma, diciamo, se c'è un aeroporto internazionale, ci saranno i voli Grazianise-Tokyo, fare arrivare innanzitutto tanta gente, la nostra è terra per ospitare i turisti. E poi le dico un'altra cosa. Ma arrivano a Napoli, fanno 30 chilometri e sono da voi. No, ma non possono arrivare voli oltre oceano a Napoli. Ma io mi chiedo, io non lo so, è una domanda da ignorante, ma il volo New York-Napoli non c'è? No, non c'è. Londra-Napoli ci sarà? E non c'è. Londra-Napoli? Ma non ci può essere, è stato fatto qualche tentativo, poi Insomma, le compagnie ovviamente richiedono particolari condizioni di sicurezza. Che aggrazzate se ci sono? Che ci voglio creare allarme. No, ci sarebbero. Ci sarebbero nel momento in cui si crea, ci sarebbero, perché è un territorio che si presenta senza impedimenti, tanto per dire, né colline né montagne intorno, no? Ecco, questo certo. è un punto importante. Allora, e per chi decide. No, è stato chiarissimo, Presidente. Io la ringrazio per essere stato con noi. Staremo a vedere gli sviluppi. So che Monti non è molto per la quale per questo progetto, e di questi tempi Monti sa anche dire dei no, come ha dimostrato ieri facendo fare 2 ore di anticamera. Qualcuno se ne voleva pare andare anche all'interno nell'articolo della stampa del Comitato 2020. Dopo 2 ore d'anticamera ha ricevuto il Comitato e ha detto: scusate, il vostro progetto è bellissimo, ma io non candido Roma per 2020 perché sono soldi dei contribuenti e c'è il forte rischio di sprechi. 24 mattino. Allora alle 8:37 minuti, eccoci qua. Roma deve rinunciare al suo sogno, Roma, l'Italia, al sogno delle Olimpiadi 2020, ha detto Mario Monti. Siamo in mesi in cui è prematuro sganciare la cintura di sicurezza. Ha fatto bene secondo voi? 800240024, ne vogliamo discutere con un europarlamentare che è stato anche a lungo sindaco di Milano, l'onorevole Gabriele Albertini. Albertini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, a chi ci ascolta e al mio interlocutore. Sì, che è il senatore Mauro Cutrufo, del Popolo della Libertà, per anni anche lui vice sindaco a Roma. Senatore Cutrufo, buongiorno. Buongiorno. Senta, partirei da lei, forse il più deluso, non so, immagino anche da Romano. Che ne pensa? Insomma, Monti ha fatto fare, ha visto anticamera 2 ore ai responsabili del comitato e poi ha detto: bel progetto, è tutto perfetto, però Cutrufo ha detto... niente, non si può fare. Sì, ma nei panni del Presidente del Consiglio mi rendo conto che un impegno finanziario come questo in un momento così difficile è un'operazione molto coraggiosa, perché le Olimpiadi, innanzitutto, attenzione, noi non è che abbiamo rinunciato alle Olimpiadi, abbiamo rinunciato a correre. Sì, certo. Attenzione. No, è chiaro, non è che erano assegnate. Non erano assegnate, però semmai la critica sta in questo. Cioè, io avevo detto a Monti, prima della rinuncia, attenzione, appunto, siccome non è che dipende da noi assegnarci le Olimpiadi, però dipende da noi la volontà di correre per le Olimpiadi, ad avere questa possibilità, perché in verità noi in questo anno avremmo dovuto preparare il dossier materialmente, dimostrare appunto la capienza finanziaria, dimostrare l'esistenza degli impianti, dimostrare che il 20% che manca si sarebbe costruito, e a luglio del 2013 gli organi internazionali avrebbero scelto fra noi, Tokyo, Madrid, eccetera, eccetera, e da lì sarebbe cominciata la vera corsa per prepararle, le vere. Cioè, quindi è stato troppo previdente, le dice Monti. Ha esagerato. In questo senso, perché certo, uno può dire sì, ma se poi le vinci, cioè nel senso appunto, che poi nel 2013 te la accreditano, mica ti ritiri. Un ragionamento che evidentemente Monti ha fatto per diverso tempo, perché si è riservato 20 giorni, lui doveva darla molto prima questa risposta, hanno riflettuto, hanno ben studiato e poi ha dato questa risposta. Ora io penso solo una cosa, no, da romano, da italiano, perché non ho mai pensato alle Olimpiadi, sì, da romano ovviamente, come stoltamente molti hanno ritenuto, anche politicamente parlando, di pensare come se fosse un evento romano, insomma, per capirci, come se la Milano Expo fosse un evento milanese. Si fa a Milano, ma certo, è un evento, è una vetrina per l'Italia, ci fossero le Olimpiadi, è mondiale. E lei che ha pensato? Io ho pensato che a questo punto, se questo governo è così determinato, allora si ragionasse e in via definitiva sul riequilibrio del debito e non usiamo, diciamo così, delle medicine inefficaci per la malattia che abbiamo, perché la conosciamo, sappiamo qual è la malattia, sì, è il nostro debito pubblico, per cui io insieme con PDL abbiamo proposto una medicina per il riequilibrio del debito e per farlo immediatamente. Allora cominciamo a stringere sui tempi, non solo questo tipo di sacrifici, che sono sacrifici, perché rinunciare alle energie, sì, significa anche rinunciare a un bel fatturato, per rinunciare dal punto di vista del turismo e del PIL sul turismo a cifre enormi, ma mi rendo conto, per serietà, per equilibrio, l'equilibrio anche quello, il debito pubblico. No, ma è interessante come punto. Io vorrei andare dall'onorevole Albertini. Albertini, le vorrei sottoporre ciò che oggi il direttore del Messaggero, Mario Orfeo, scrive. È l'ennesima dimostrazione che comanda sempre il Nord. Non è cambiata la forte spinta nordista di questo e dell'esecutivo Berlusconi. Sono anni che non abbiamo un presidente del Consiglio nato sotto l'Appennino. L'esito sarebbe stato lo stesso con Milano candidata al posto di Roma. Ecco, anche questa è una lettura, onorevole Albertini, di Monti che dice no a Roma. Sì, è una lettura e come tale può essere appunto interpretata, anche rispettata. Dal mio punto di vista non condivisa, perché gli argomenti che bene ha sottolineato, cioè pure criticamente, il senatore del gruppo, sono in sé, sono validi, sono oggettivi. Veda, io mi trovo in Francia e quindi mentre parlava il senatore Cotruffo mi veniva in mente la nota, notissima favola di La Fontaine, la cigale, le tesse trova fort de provocant la ride fu venu pas un sol petit morceau de mouche ou de vermisseux. Noi abbiamo fatto per decenni la cicala e adesso è venuto l'inverno e dobbiamo ricomporre i nostri conti e creare le condizioni per non andare in una situazione tragica come quella della Grecia. E le Olimpiadi sono inizialmente una ipotesi di spesa, poi possono essere un investimento a seconda di come vengono fatte e come vanno. Citiamo i due casi più recenti ed europei. Barcellona è stata una vicenda che ha portato un grande sviluppo economico non solo alla città che ha ospitato le Olimpiadi, ma anche all'intero paese. Sono state fatte correttamente, le spese sono rientrate perché gli investimenti sono stati poi utilizzati dalla comunità locale e non solo. E la Grecia invece ha dato un esempio di come lo spreco e le condizioni di gestione siano stati fallimentari, e certamente un contributo al danno economico che ora vediamo il disastro in cui ma si pare, trova. Pare che Monti abbia proprio detto, pare che Monti abbia proprio detto, studiando il dossier, a meno scrive così oggi Repubblica in un retroscena, con le Olimpiadi facciamo la fine della Grecia. Però è un brutto segnale, anche lei che è stato anche amministratore di una città e quindi a gestire anche abituato a gestire grandi eventi, è un brutto segnale, Albertini, il fatto che sia qualcuno dice un po' un impietoso giudizio nei confronti degli italiani, cioè non siamo in grado di gestire queste cose, il passato dimostra che spesso sprechi ce ne sono stati. Appunto, è proprio per questo che vanno evitati, e in un momento in cui chiediamo a tutto il paese, a tutte le categorie, anche a quelle che decidono, a quelle che hanno e anche ai meno abbienti, perché le pensioni non sono solo quelle, diciamo, dei privilegiati, ma sono quelle di tutti, e così sarà per molti altri interventi che sono equanimi, nel senso che toccano tutti, anche i redditi più bassi. E in un quadro di questo, con questi connotati, credo che sarebbe stato contraddittorio pensare di distanziare, di impegnarsi a stanziare una cifra enorme, equivalente a una manovra, per un evento che può, nelle migliori delle ipotesi, portare a qualche vantaggio, ma che in molti casi, l'esempio della Grecia più vicino a noi, se non viene gestito correttamente, porta invece a delle ulteriori voragini nel debito pubblico. Sì, anche dei disastri. Allora, Andrea da Roma, buongiorno Andrea. Buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione. Lei vede il suo sogno svanire, sogno da romano, ma da italiano, con queste Olimpiadi? Guardi, da romano posso affermare che Roma di per sé è già piena di turisti, e averne qualcuno in più per 15 giorni di Olimpiadi, sinceramente. Beh, non l'Olimpiadi non è solo turismo, è il mondo che ti guarda, è lo sport, è investimenti anche, sì. No, non è solo un po' di turismo in più. Giustamente, ma si è visto già con tanti altri impianti costruiti e poi abbandonati a se stessi, quindi non so, io da romano penso che Roma è già vista e guardata dal mondo ogni giorno. Questa Olimpiadi sinceramente mi sembrava proprio una spesa inutile. Esatto. Quindi lei è a favore di questo no rigoroso di Monti. La ringrazio Andrea, voglio andare a Bergamo da Alberto, buongiorno. Buongiorno, io sono favorevole a quella decisione che ha preso il Presidente del Consiglio Monti, perché il biglietto da visita che Roma ha portato con i campionati del mondo di nuoto sicuramente non sono un miglior biglietto da visita per presentarsi poi alle Olimpiadi. Perché dice le inchieste che ci sono state, esatto, la piscina non è finita. No, era solo un campionato del mondo, figurati per un'Olimpiade. E ho l'impressione che ci sia anche qualcosa in più da vedere in quello che è come si sta muovendo il CONI, perché Petrucci secondo me sta anche trasformando il CONI in un sistema autoreferenziale, secondo me ha messo il bavaglio a molta stampa per spingere su questo evento. Vabbè, questo lo stesso governo ha fatto presente anche quello. Queste vicende di politica interna sportiva non le conosco molto bene. Comunque sto sul suo no. Vorrei tornare per un attimo a Roma ancora. Luca, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo dare il mio giudizio, il mio parere su questa situazione qui delle Olimpiadi di Roma. Sì, certo. Io diciamo vivo a Roma, sono cittadino di Roma, ma questo vuol dire poco, o forse sono anche un po' interessato alla cosa maggiormente proprio perché vivo qui. Diciamo che come primo impatto c'è una forte delusione, in quanto era anche un motivo per dare un po' di entusiasmo a un paese che al momento è un po' depresso per tutto quello che accade in Italia, in Europa e non solo. E quindi poteva essere la possibilità di avere un rilancio. Certo, poi se uno comincia a vedere i vari costi, tutte queste cose di investimenti... quello ha visto il Presidente del Consiglio che deve fare. Ha studiato il dossier e ha detto qua sono soldi dei contribuenti, non possiamo mica rischiare un salasso di questo tipo, no? Che andiamo in Europa a dire facciamo il rigore, i rigorosi, e poi rischiamo di subito dopo 3 mesi, dice, di rigore, di far vedere che spendiamo e spandiamo. Sì, effettivamente questa è una. Infatti io devo ammortizzare il colpo, poi magari ragionandoci bene, forse non è sbagliato quello che dice Monti, però posso dire un'ultima cosa. Sì, sì. È vero questo del discorso, però io ieri ho visto dei calcoli un po' in varie emittenti televisive, poi gli darò ancora più, analizzerò più il punto, e ho visto che comunque ci sono anche degli introiti importanti. Poi è vero che questo Guardi, oggi Sole 24 Ore dice che con questa decisione c'è un addio a 17 miliardi di crescita del PIL e a 17,7 miliardi in un decennio, 2012-2025, con creazione di 170.000 posti di lavoro. Questa era la commissione che ha valutato l'impatto economico, che Monti ha valutato però, e poi ha detto no. Senatore Cutrufo, lei la pone su questo, lei sa l'ironia anche cosa è successo sulla neve a Roma, lo psicologico dramma che è avvenuto, molti dicono ma se non siamo stati in grado di gestire 30 centimetri di neve, come facciamo a gestire un evento come le Olimpiadi? E poi la lettura nord-sud che fa il direttore del Messaggero, che ne pensa? Dunque guardi, per quello che riguarda la gestione di eventi, Roma li ha già fatti, cioè parliamo di quasi normalità, poi... Per molti dicono le inchieste, gli scandali, non... Ce ne sono stati. Anche su questo, le Olimpiadi a Roma ci sono stati già nel 60, abbiamo avuto i mondiali di calcio, e se le ricorda le polemiche o le ha scordate? Mi ricordo anche gli sprechi però. Le polemiche, no, appunto, nonostante le polemiche, in 24 mesi si edificò tutto, e forse quella fretta poi ha anche portato a quelle non utilizzazioni successive. Mi ricordo di qualche fermata di metropolitana, non mi ricordo bene di qualche binario ferroviario che ancora deve essere aperto, però di fronte all'emergenza, non Roma ma l'Italia, ha sempre saputo reagire, ha sempre ben condotto l'organizzazione. No, sì. Non è questo il problema, il problema è: non facciamo le Olimpiadi perché è così serio, perché questa è la motivazione, no? Non giriamoci intorno. È così serio il problema economico e finanziario, tanto che qualcuno dice di aver sentito da Monti finiamo come la Grecia, giusto? Questo è un assunto. Appunto. E allora il problema va spostato. Se questo è vero, il Presidente del Consiglio e il Governo, con il Parlamento naturalmente, ha il dovere di puntare al riequilibrio del debito. Adesso bisogna voltare pagina, addirittura rinunciamo alle Olimpiadi per via di questo rischio. Allora, bene, la seconda decisione è il riequilibrio. Ma che ne so, oggi il ministro alla difesa pare annuncerà al governo in Parlamento il taglio di 30.000 uomini della difesa, il taglio di l'acquisto di 30, non so, questo per esempio abbasserà un po' il debito pubblico, cioè qualcosa Monti, a meno stando ai giornali, sta facendo, dice no alle Olimpiadi e credo affronterà anche questo argomento. Vorrei tornare dall'onorevole Albertini. Senta, molti dicono allora anche l'Expo, e lo stesso sempre leggo dall'editoriale del Messaggero, cos'è? Al nord o a Milano sono capaci di organizzare l'Expo e Roma non è in grado di fare le Olimpiadi? Beh, sono due situazioni non confrontabili. L'Expo rispetto alle Olimpiadi è una, diciamo, un dettaglio di un insieme molto ma molto più costoso e oneroso. E poi nel caso di Milano buona parte dei fondi che erano stati stanziati sono stati molto ridimensionati anche dal precedente governo e l'apporto del capitale privato alla gestione dell'evento è consistente. Si tratta veramente di proporzioni non confrontabili. Per quanto poi riguarda, se mi permette, recupero una domanda che mi ha fatto e a cui non ho risposto, ho blizzato, ma io manderei una copia al direttore del giornale che ha così criticato questo atteggiamento ritenuto filo nordista di un libro interessantissimo, un po' sottovalutato, Luca Ricolfi, Il sacco del Nord. Sì. Sarebbe interessante leggerlo e capirebbe come buona parte del reddito prodotto in Italia, il 70% viene prodotto nelle quattro regioni del nord e si distribuisce nel resto del paese, anche se non c'è un Presidente del Consiglio che è nato. Quindi lei ci legge più un'amarezza da parte del direttore del Messaggero per il momento, per il no ricevuto, più che un qualcosa corroborato dai fatti e sostenuto dai fatti? Direi il contrario, perché un conto è produrre, un conto è distribuire. Se lei vede il reddito medio di un cittadino del sud, il consumo medio e il reddito medio, si rende conto di che sproporzione ci sia. Il consumo è quasi uguale a quello del resto del paese e il reddito è molto più basso. Che sia poi contabilità diciamo nera o semplicemente non produzione, questo lo dirà l'Agenzia delle Entrate, però il rapporto è quello: si produce al nord e si distribuisce nel resto d'Italia. Allora, intanto io nel ringraziarvi, staremo a vedere come va questa vicenda. Pare che il no c'è stato e pare che il 90% dai sondaggi più o meno di italiani siano da questo punto di vista a favore della decisione di Monti, che però ieri, incontrando il Comitato Olimpico, avrebbe detto tra le altre cose: domani i giornali mi massacreranno. Ma non è tutt'altro che così, anzi io, come ho detto, lancio sempre l'idea: si attende la prima pubblicazione anche a puntate della agiografia di Mario Monti, il primo quotidiano si può candidare. Ci fermiamo ringraziando tutti in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è rinnovato a domattina alle 7:20. 24 mattino.